Il sacro col profano si danno la mano ed andranno lontano se non guardano lontano. Vanno a braccetto senza avere un piano, con lo sguardo proiettato al di là di ciò che siamo. E si cercano invano come il flow di questo brano, insistentemente come in un rapporto umano, senza trovarlo anche se suona strano, come un pezzo di pane in un campo di grano. Eppure c'è, chiedilo all'agricoltore, bisogna lavorarci e farlo col cuore, perché a questo mondo se ci credi fino in fondo diventa tutto un giro giro tondo, chi era su si ritrova giù all'inferno con la testa in su, chi era un bambino si ritrova uomo e non guarda indietro perché è forte e mai domo. Ho fatto pace col cuore, col passato, accettando quello che ho passato, finalmente so chi sono, ora sono diventato un uomo. Ho fatto pace col cuore, col passato, accettando quello che ho passato, finalmente so chi sono, ora sono diventato un uomo. Questo è l'ottavo testimone di ciò che non ho detto, ho perso le parole quel giorno maledetto, quello che provavo per non essere me stesso, l'indifferenza che portavo in un sogno represso, l'amore che tutto un tratto è esploso, anche se troppo tardi ora oso a rendermi ridicolo, non c'ero la ce l'ho, pensavo alle tenebre ed è arrivato un angelo, e queste lacrime dicono che c'è un cuore, e se un uomo non piange piano piano muore dentro e diventa arido, spegne quel fuoco e diventa avido, se non va a Piazza Pulita dei brutti ricordi, con una festa in piazza di quelle che non scordi mai, che ti lasciano senza fiato perché sai che il passato è passato e se torna porta solo guai. Ho fatto pace col cuore, col passato, accettando quello che ho passato, finalmente so chi sono, ora sono diventato un uomo. Ho fatto pace col cuore, col passato, accettando quello che ho passato, finalmente so chi sono, ora sono diventato un uomo.